Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi cominciamo a parlare di politica e di storia con il libro di Mirella Serri, I profeti disarmati, 1945-1948, La guerra tra le due sinistre. È pubblicato da Corbaccio, 230 pagine, 18 euro. Chi furono i profeti disarmati? Secondo l'autrice, sono quegli intellettuali, soprattutto liberali, che si erano riuniti intorno al giornale Risorgimento Liberale, che fu pubblicato prima clandestinamente e poi come organo del Partito Liberale e che era diretto da Mario Pannunzio, il grande giornalista cresciuto alla scuola di Longanesi, che poi avrebbe dato origine e diretto il settimanale Il Mondo, un'altra testata molto famosa nella storia del giornalismo italiano. Pannunzio e il suo giornale di cultura liberale antifascista, appunto, furono protagonisti di aspre polemiche col Partito Comunista e con la linea seguita da quel partito che voleva legittimarsi come unica espressione autorizzata dell'antifascismo e dunque come il partito che potesse attribuire o meno la patente di democraticità a tutti gli altri movimenti politici. E quindi lo scontro fra Pannunzio e il suo giornale e il Partito Comunista fu molto duro, anche perché il Partito Comunista in quegli anni non andava tanto per le spicce per cercare di bloccare le voci di opposizione a quella che era la cultura di quel partito e soprattutto la cultura antifascista che si voleva fare passare come unica. La Serri ricostruisce tutte queste polemiche, ricostruisce soprattutto il contributo al dibattito politico e l'eredità che questa cultura ha lasciato non soltanto nella politica ma anche nel giornalismo italiano, come ci spiega adesso in questa breve intervista. Buongiorno Mirella Serri. Buongiorno. Professoressa Serri, questo suo libro, I profeti disarmati, come sottotitolo porta La guerra tra le due sinistre. Poi in copertina vediamo la figura di Luigi Einaudi e leggiamo nel suo libro che uno dei nomi ispiratori di Pannunzio assieme a Einaudi fu Croce. Quindi come mai questo richiamo alla sinistra? Einaudi e Croce certo non erano di sinistra. No, certo, ma intanto si tratta di una storia che direi mai raccontata e nasce intorno a un quotidiano Risorgimento Liberale creato da Pannunzio. La guerra tra le due sinistre è una cosa strana che noi adesso oggi nemmeno riusciamo a immaginarci, ma erano i nostri, riuniti intorno a questo giornale, c'erano i nostri laburisti, i nostri intellettuali, politici, liberali, ma di sinistra. Appunto vestivano all'inglese, erano i laburisti all'italiana, che ingaggiarono un braccio di ferro con un'altra sinistra, quella del Partito Comunista. Fu una guerra, un conflitto che si svolse all'interno della grande casa comune antifascista e che è la storia di una sconfitta. Non è detto però che le storie di una sconfitta non lasci tracce, non lasci anche delle fertili tracce. Ecco, il suo libro ha dato spunto a una piccola la polemica sul Corriere della Sera fra Giovanni Russo, che fu uno dei protagonisti di quell'epoca di quel giornalismo, e il direttore del centro Pannunzio, Franco Quaglieni. Tutti e due sostanzialmente però concordano nel sottolineare come Pannunzio non fosse un laburista, come lei ha detto, ma fosse un autentico liberale. Quindi perché continua a esserci questo equivoco tra laburisti e liberali? Questi erano veramente liberali, molti di essi. A partire dal fondatore. Che in quel momento, stiamo parlando degli anni 44, 40, comunque dal 45 fino al 1947. Pannunzio, proprio tramite il suo giornale, tende e guarda moltissimo a sinistra, soprattutto ai socialisti. Nella diatriba con il Partito Comunista c'è un oggetto del contendere ed è il rapporto con i socialisti. Pannunzio, anzi addirittura all'inizio, è proprio scritto nei testi che io ho riportato, addirittura guarda un'alleanza col Partito Comunista, poi se ne stacca perché capisce che non può condividere molte delle impostazioni del Partito Comunista su temi di carattere nazionale e internazionale, che vanno dai prigionieri italiani che si trovano in Unione Sovietica, dalla questione delle foibe, dalla questione dei territori della Jugoslavia, dell'Est. l'esodo e così via. Detto questo, però, Pannunzio continua per un po' a tendere la mano al Partito Comunista e poi comunque ad ambire all'alleanza con i socialisti. Quindi io li ho chiamati liberal, comunque liberali di sinistra, perché tali erano. Tranne non tutti, perché ripeto, Einaudi certo non era un liberale di sinistra, neanche Benedetto Croce. Ci sono dei grandi padri, dei nomi tutelari che sono Benedetto Croce, che sono Einaudi, ma che sono figure che stanno un po' sullo sfondo. E poi tutto il giornale si muoveva, il giornale, il gruppo di intellettuali si muoveva un po' in questa direzione. Certamente i socialisti non erano pronti ad accogliere questa attenzione, perché stavano tutti tranquillamente con i comunisti, non c'era non neanche... Erano pronti, no, appunto erano un oggetto del desiderio. Quali furono i momenti più duri del confronto tra Pannunzio, il Risorgimento Liberale, questo gruppo di intellettuali, LibLab, diciamo così, e il Partito Comunista? Ecco, lei ha detto giustamente, ci furono momenti molto ma molto duri che nel libro vengono appunto illustrati e raccontati, perché quello, io ho cominciato questo libro pensando di raccontare le storie delle polemiche intellettuali che c'erano state tra il Partito Comunista e il Risorgimento Liberale, anzi alcuni intellettuali del PC e il Risorgimento Liberale. E poi invece, quando sono andata a leggere questo giornale e poi ho fatto riscontro anche con altri, ho trovato tutta una serie di episodi di violenza, e quando dico violenza voglio dire uccisioni, sedi incendiate, giornali bruciati, persone picchiate a morte e così via, che furono proprio all'interno della casa dell'antifascismo, cioè ci fu un conflitto tra antifascisti comunisti e gli altri antifascisti. Sto parlando dell'antifascismo cattolico, dell'antifascismo dei monarchici, dell'antifascismo dei repubblicani, dell'antifascismo dei liberali. Ecco, per esempio il Risorgimento Liberale fu un giornale che venne portato in piazza, bruciato, assaltate le edicole, le sedi e così via, e quindi fu addirittura in quel periodo sorsero proprio un linguaggio per raccontare questi episodi. Gli attentati ai singoli venivano definiti, chiamiamoli così, benevolmente illegalismi, mentre poi nel 1947, l'anno in cui ancor di più si accende questo scontro feroce, si parlava di delitti di folla, cioè gruppi di persone che sembravano confluite per caso, appunto per vari motivi, per protestare eccetera, assediavano sedi della Democrazia Cristiana, dei liberali e così via, e mandavano a morte anche quelli che non erano della loro parte politica. Senta, di questa lezione di Pannunzio, di Risorgimento Liberale, che era appunto per un periodo fu anche il giornale del Partito Liberale, e di questi altri intellettuali, che cosa rimane più vivo nella nostra eredità, il messaggio politico o quello giornalistico? Ah, guardi, io mi sono innamorata di questo giornale quando ho cominciato a sfogliarlo, l'ho trovato modernissimo. Poi tra l'altro Pannunzio sarà il creatore del Mondo, che appunto, come è noto, è stato considerato il capostipite di tutta una serie di giornali che poi vengono dopo, l'Espresso fino a Repubblica, ma prima ancora c'era il Risorgimento Liberale ed era modernissimo. Però direi anche che il messaggio è vivo e bruciante ancora oggi, cioè nel senso che questi appunto, perché liberali di sinistra parlavano continuamente di una terza via, di una terza forza, questa scelta, questa opzione verrà poi ribadita come possibile ma non praticata poi dalle colonne del Mondo. Ecco, continuano a parlare di una terza via che forse direi che ancora oggi potrebbe essere, così lo dico come opzione politica e anche molto intellettuale e culturale, potrebbe anche essere una chance che potrebbe allettarci. Bene, grazie a Mirella Serri, autrice dei Profeti Disarmati. Grazie. La cultura di cui fu espressione Mario Pannunzio e i Profeti Disarmati, come li chiama appunto Mirella Serri, trova il suo fondamento in un filone di laicità e di libertà di pensiero che troviamo descritto nel libro curato da Michele Ciliberto, Biblioteca laica, il pensiero libero dell'Italia moderna. Questo libro è pubblicato dalla Terza, 596 pagine, 28 euro. Si tratta di un'antologia degli autori più significativi della tradizione laica, di cui è espressione, secondo il curatore, la tendenza a difendere quella che egli chiama la libertas philosophandi, cioè la libertà di ricerca e di studio. L'anticlericalismo, spiega Ciliberto nella sua introduzione, c'entra poco, anzi nulla, con la laicità. Scrive infatti il curatore: molti dei più autorevoli rappresentanti di questa cultura, a cominciare da Machiavelli, hanno saputo comprendere la funzione civile della religione, il ruolo positivo che essa può svolgere, se basata su giusti fondamenti, nella vita di un popolo che ambisca alla forza, alla potenza. Ma la laicità, aggiunge Ciliberto, è qualcosa di molto più vasto di una polemica per quanto aspra nei confronti della Chiesa di Roma. Nella laicità si è espressa una vera e propria concezione della sapienza, e di questa concezione troviamo le testimonianze appunto in tanti testi che vengono presentati da un'introduzione che ne segnala i temi ricorrenti e profondi, e troviamo quindi gli autori da Leon Battista Alberti a Machiavelli, fino poi a Guicciardini, Bruno e poi Casanova, Sarpi, Vico, Mazzini, Manzoni, Cattaneo e Cavour. Di Cavour viene pubblicato lo storico discorso del 25 marzo del 1861, nel quale il grande statista piemontese lanciò la formula di libera chiesa, il libero Stato. Anzi, questo è il documento finale di questo libro, e vi propongo da questo storico discorso alcune righe. La storia di tutti i secoli, come di tutte le contrade, ci dimostra che ovunque la riunione tra il potere civile e il potere religioso ebbe luogo, la civiltà quasi sempre immediatamente cessò di progredire, anzi sempre indietreggiò. Il più schifoso dispotismo si stabilì, e ciò, o signori, sia che una casta sacerdotale usurpasse il potere temporale, sia che un califfo o un sultano riunisse nelle sue mani il potere spirituale. Dappertutto questa fatale mescolanza ha prodotto gli stessi effetti. Tolga dunque Dio, signori, che ciò avvenga nella nostra contrada. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Passiamo adesso a una serie di libri al femminile. Comincio con Emmanuelle de Villepin, che è autrice de La ragazza che non voleva morire, pubblicato da Longanesi, 238 pagine, 16,60 euro. Questo romanzo ci porta in Cecenia, a partire dalle gesta di una ragazza, Madina, che rifiuta il destino alla quale è stato condannata, quella di essere suo malgrado una kamikaze, di farsi saltare in aria. E da questa decisione nasce la vicenda raccontata nel romanzo, che si intreccia con quella di un giornalista francese che ci immerge nella cronaca del tentativo di un vecchio ceceno di far recuperare la normalità ai suoi nipoti e di farli sfuggire alla spirale di odio e di violenza che li condannerebbe in Cecenia. Una spirale di cui è protagonista dall'altra parte della barricata lo stesso figlio del vecchio, Kamzan, che è addirittura uno dei capi dei terroristi. Un'altra donna è protagonista di un libro che ci riporta in una Shanghai mitica. L'autrice è Bamboo Hirst, è nata da madre cinese e padre italiano, che racconta la città dove è nata, Shanghai appunto, in Vado a Shanghai per comprarmi un cappello. È pubblicato da PM, 252 pagine, 14,50 euro. Il titolo riecheggia la battuta di un film di cui era protagonista Marlene Dietrich, e questo conferma il fascino che questa città ha esercitato nel Novecento in tutto il mondo. La Shanghai delle concessioni era una città infatti brillante, ricca, internazionale, dominata dai quartieri delle varie nazioni che lì vi avevano una rappresentanza. Una città quindi unica al mondo, come spiegano queste righe tratte dal libro di Bamboo Hirst. Shanghai era il simbolo e il risultato di tutta un'epoca. La città più ibrida del mondo era il grande emporio dei traffici internazionali, delle grosse banche e compagnie di navigazione, un centro di smistamento e di speculazione, di magazzinaggio e di vendita. Era anche, curiosamente, il punto focale della propaganda cristiana in Cina e, nel contempo, il luogo più corrotto di tutta l'Asia. La sua fama di capitale d'ogni vizio orientale e occidentale era leggendaria. Era la prostituta dell'Asia e anche la Parigi d'Oriente. Era il paradiso degli avventurieri e un porto per milioni di cinesi che cercavano rifugio dalle guerre e dalla povertà. Era il meglio e il peggio di tutto. La sua composizione sociale abbracciava un vasto assortimento di umanità, dai vagabondi agli intellettuali, dalle prostitute ai diplomatici e ai parvenu. E nel libro troveremo poi la storia, le storie, la vita a Shanghai dell'epoca d'oro tra gli anni 20 e 40, quando la città, ripeto, fu uno dei crocevia del pianeta. A proposito di Cina, vi segnalo un libro insolito che è l'autobiografia di un signore che si chiama Ji Chaozu, poco noto naturalmente. Il libro si intitola L'uomo alla destra di Mao, è pubblicato da Longanesi, 406 pagine, 24 euro, tradotto da Sergio Mancini. Il personaggio è certamente poco noto, anche se poi concluse la sua carriera come vice segretario dell'ONU. Si trattò dell'uomo che fece da traduttore dall'inglese ai protagonisti della politica cinese, da Chu Enlai fino a Mao Zedong. Era stato infatti educato in America, dove si era trasferito da bambino per ordine del partito assieme alla famiglia, e poi inizia la sua carriera in Cina fino a diventare appunto il braccio destro di questi protagonisti della politica cinese, da essere al centro dei colloqui che aprirono le relazioni diplomatiche tra l'America di Nixon e la Cina di Mao Zedong. E lui appunto era quello che traduceva tra il dottor Kissinger, come lo chiama con rispetto tuttora, e il presidente Nixon e i dignitari cinesi. Quindi abbiamo dall'interno una descrizione della vita della politica cinese molto interessante. Torniamo invece alle donne con Jane Austen, la grande scrittrice inglese, autrice di Orgoglio e Pregiudizio, tra l'altro, che ritroviamo come protagonista e investigatrice nel libro di Stephanie Barron, Jane e la disgrazia di Lady Scargrave, è pubblicato da Thea, 316 pagine, 10 euro, tradotto da Alessandro Zabini. L'autrice è una studiosa americana che ha lavorato a lungo nella CIA e che poi ha abbandonato la sua professione per dedicarsi invece ai romanzi, in particolare ai romanzi di investigazione, di cui ha come protagonista la grande scrittrice inglese. Siamo quindi nell'Inghilterra del XVIII secolo. Questo che vi propongo è il primo della serie ed è un libro che si avvia imitando l'incipit del più famoso romanzo della Austen, come potete sentire adesso. Quando una giovane gentildonna, più dotata di buone maniere che di mezzi, ha il buon senso di conquistare l'affetto di un gentiluomo più anziano, vedovo, possidente e agiato, si considera solitamente che il connubio sia dovuto all'intelligenza di entrambe le parti. La storia si farà subito cupa e intricata, ambientata nell'affascinante ma certo a volte sinistro ambiente dell'aristocrazia britannica, di cui la Austen Barron ci dà una brillante ricostruzione. Colleen McCullough, una scrittrice australiana nota per aver scritto Uccelli di rovo, tenta invece la prosecuzione del romanzo più famoso di Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio, nel libro L'indipendenza della signorina Bennet. È pubblicato da Rizzoli, 444 pagine, 21,50 euro, ed è tradotto da Roberta Zuppet. L'ultima delle signorine Bennet, rimasta zitella per accudire la madre, si ritrova padrona della propria vita quando l'anziana signora Bennet muore. E di qui comincia la ricerca dell'indipendenza. La signorina Bennet deve decidere cosa fare della propria vita, che aveva sostanzialmente consacrato alla madre, e si dedicherà quindi a un'impresa per l'epoca veramente stravagante ed azzardata, e cioè una sorta di indagine sulla povertà in Gran Bretagna. Un modo, questo del libro della McCullough, che può rappresentare, come è stato osservato in alcune recensioni straniere, un modo per avvicinare all'immortale avventura delle signorine Bennet, quella descritta appunto da Jane Austen, una nuova generazione di lettori. Restiamo in quel periodo storico all'incirca con Lucia Memmo, un personaggio storico protagonista della Venezia a cavallo tra 700 e 800, quadrinonna dell'autore del libro che è Andrea di Robiland. Il titolo è Lucia nel tempo di Napoleone, ritratto di una grande veneziana, e pubblicato da Corbaccio, 304 pagine, 18,60 euro. L'autore è un giornalista, esperto di politica internazionale, che ha ritrovato una corposa raccolta di lettere della progenitrice Lucia Memmo, la quale era nata nel 1770 e aveva sposato giovanissima un protagonista della Venezia aristocratica del tempo, cioè Alvise Mocenigo. Si era trovata poi coinvolta nelle vicissitudini che segnarono l'effimero passaggio di Napoleone per Venezia. Il nipote oggi ha ritrovato appunto non solo a Bergamo le 1500 lettere di Lucia, la sorella, ma anche un ritratto di Angelica Kaufmann, la grande pittrice del Settecento, che ha recuperato in Gran Bretagna, dove ancora oggi custodito. Da qui, da queste due fortuite occasioni, nasce e si sviluppa la storia della donna, che è uno squarcio significativo di quella Venezia ormai in declino ma sempre animata da un'interessante vita sociale, di cui è testimonianza il passaggio a Venezia del grande poeta Byron, al quale Lucia, afflitta dopo la morte del marito da grossi problemi finanziari, affitterà il palazzo di famiglia. Il rapporto non sempre sarà facilissimo, sia per il temperamento del poeta che per banali questioni economiche, come ricorda questo squarcio del libro, che peraltro sottolinea l'importanza che Byron e la sua padrona di casa ebbero in quel periodo per Venezia. Lucetta e Byron si erano dunque lasciati in maniera tutt'altro che amichevole, ma lo spirito del poeta non abbandonò mai del tutto Palazzo Mocenigo, come del resto non lasciò mai Venezia. Ancora oggi è presente nella città che egli contribuì a far risorgere forse più di chiunque altro. Quando Byron vi arrivò nel 1816, Venezia era praticamente una città morta. Gli austriaci non avevano alcuna intenzione di spendere soldi per cercare di resuscitarla. Anzi, erano ben contenti di farla affondare per aiutare Trieste a emergere. E Byron, un uomo completamente estraneo al mondo scomparso di Lucetta, era in qualche modo riuscito a dare a Venezia una nuova identità, una nuova vita, trasformando quelle rovine che sprofondavano nella laguna in un paesaggio esistenziale, romantico, un luogo dello spirito. Il suo soggiorno veneziano fu pieno di stravaganze e di eccessi, ma fu anche un periodo di grande ispirazione e di creatività. Per buona parte del XIX secolo, artisti e poeti si sono ispirati al mito forgiato da Byron, dandogli a loro volta nuova linfa. Nella Venezia che i viaggiatori venivano a visitare, Lucetta aveva un ruolo tutto suo, una sorta di cameo, proprio per essere stata la padrona di casa del grande Byron. Quante volte il poeta si sarà rivoltato nella tomba? Ma Lucetta rappresentava anche e soprattutto il legame vivo con la scomparsa Repubblica dei Dogi. E a questo punto... Il confettino. Restiamo in tema di donne, di antenate, con le tue antenate, appunto. Il sottotitolo del libro è Donne pioniere nella società e nella scienza, dall'antichità ai giorni nostri. Il libro è di Rita Levi Montalcini, che l'ha scritto con Giuseppina Tripodi. L'autrice non ha bisogno di presentazione, la premio Nobel senatrice a vita, la quale vuole presentare in questo scritto ai più giovani alcune figure femminili che hanno fatto la storia della scienza e non soltanto, magari vincendo delle difficoltà e dei grandi ostacoli. Si parte quindi da Ipazia, la prima e unica donna matematica per oltre un millennio che visse nel IV secolo d.C., e poi si trovano tante altre donne celebri e meno celebri, da Hildegarda di Bingen, alla figlia di Galileo, a Maria Curie, fino ai giorni nostri. E con questo ringrazio Laura Marchesi e Daniele Casagrandi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Ricordo che adesso andrà in onda Respiro di Laura Bettini. Il nostro indirizzo di posta elettronica è unlibro@radio24.it. Vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro buona settimana.